Arrivato mi dice, Gianni, vabbè, mo siamo a Miami, mo usciamo dall'aeroporto, prendiamo un taxi, andiamo giù a Miami, prendiamo un albergo, dobbiamo un albergo, mangiamo e com'è. Sono stato 18 ore dentro l'aeroporto, ma non ho voluto mettere piede sul suolo americano. Renato mi chiese il motivo di Renato. In America è un paese talmente incivile che esiste ancora la pena di morte. Può essere che noi adesso prendiamo un taxi, quello fa una qualcosa di sbagliato, molto grave, ci dà la colpa a noi, qui ci sta la pena di morte. Sono stato 18 ore perquisito tre volte. E dice, qui sta a fare qua 18 ore, viene da Cuba a Miami, e però non ci ho messo piede, sono stato avventurista.